per ogni esposizione, più o meno con la pubblicità, come i tempi, sapete, no? Quando dobbiamo suddividere cerchiamo anche di rispettare i tempi per lo slot pubblicitario, e ci mancherebbe anche. Da Felice Gianni a Luigi Serra, quindi la suddivisione in mostra che ripartirà con la nostra sigla dei Modern Jazz Quartet anche al successivo stacco degli spot. In questa parte invece, sempre legato al lungo 800, parliamo delle collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Palazzo Fava, fino al 30 giugno 2024, Palazzo delle Esposizioni. Troviamo una realtà curata dal professor Angelo Mazzi, strutturata in sezioni tematiche, presenta 30 artisti, 100 opere. Troviamo, come già da colonna portante in presentazione, Felice Gianni e Luigi Serra, e non è casuale questo binomio, anche l'importanza di altre espressioni artistiche come la scultura, oltre che l'arte figurativa. Ci sarà il fantastico Antonio Basoli, da cui parleremo, io la passione per Antonio Basoli, ne parleremo con Angelo Mazza per una sezione, come ho detto, dedicata a questo artista che abbiamo definito giustamente fantastico. Alcuni li abbiamo già conosciuti per quanto riguarda lo sviluppo del talento, Luigi Busi, Giovanni Masotti, e per quanto riguarda la struttura di queste sezioni tematiche, eterogenee tra di loro ma assolutamente cariche di una bellezza e di un talento da cadere spalle indietro. La mostra si così tiene in una sede espositiva che è costante dialogo per quanto riguarda la mostra, che è già presente nel lungo 800, sede espositiva che è opera d'arte già di per sé, per cui l'aspetto dialogico di queste sei sezioni all'interno del Palazzo Fava avrà motivo di valore aggiunto. Intanto entriamo in mostra, ne osserviamo una prima parte grazie al dialogo che ho tenuto e grazie al professor che è curatore della mostra, Angelo Mazza. Possiamo definirlo un All-Star Game, un Dream Team dell'Ottocento a Bologna. È un grande piacere ritrovare il professor Mazza ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno e bentornato. Grazie. Questa è l'occasione di una nuova mostra. Sì, l'occasione di una nuova mostra nel contesto che ho appena, nell'incipit di questa conversazione, portato. E come si colloca la mostra a Palazzo Fava? Sì, diciamo che ha un duplice versante. Da un lato sono tutte le opere che la Fondazione possiede nelle proprie raccolte di pittori bolognesi dell'Ottocento, e questo è una conseguenza naturale di due mostre che abbiamo realizzato a Casa Saraceni, una sulle pitture del Seicento e l'altra invece sul Settecento. Quindi era naturale che poi ci rivolgessimo anche alle raccolte dell'Ottocento, perché sono cospicue dentro le collezioni della Fondazione. Dall'altro è arrivato un invito da parte del Comune, e questo ha fatto enormemente piacere perché c'è stata una convergenza di interessi. Il Comune organizza e coordina una serie di mostre in città alla quale questa appartiene. E quindi è stata una coincidenza di interessi: da un lato il rilancio dell'Ottocento bolognese da parte del Museo del Risorgimento con Roberto Martorelli, Isabella Stancari e l'assessorato alla cultura, dall'altro invece una programmazione della Fondazione che singolarmente, forse casualmente ma non è detto, viene a coincidere. Quindi noi abbiamo estratto dai depositi oppure dagli uffici, da luoghi che non sono normalmente accessibili se non su richiesta specifica, specie da parte degli studiosi, tutte le opere dell'Ottocento, e si comincia, diciamo così, da Felice Gianni fino a Serra. In realtà si comincia anche un po' prima. C'è un quadro molto importante di Gaetano Gandolfi, pittore autenticamente del Settecento, ma è un quadro singolare nella sua produzione che in qualche modo anticipa alcune peculiarità della pittura dell'Ottocento. Intanto il soggetto è la morte di Socrate, quindi un soggetto storico, non è quindi né mitologico né sacro, e dietro c'è il Fedone di Platone, cioè il racconto dell'ultimo giorno di vita del grande filosofo. E c'è una severità, una sobrietà che non è propria dell'artista, ma che è stata un po' imposta dal committente, che era un illustre avvocato, poi abbraccia anche la carriera religiosa. Prosegue poi la mostra naturalmente con Felice Gianni, con Pelagio Palagi, per arrivare fino alla metà dell'Ottocento, con Guardassoni, terminare poi con Serra e altri pittori. Però questa è soltanto la prima sezione, che è quella delle figure, della pittura di figure. Autunno 1974, fall 1974, lui è Anthony Braxton e faremo un po' un All-Star Game per quanto riguarda la esposizione che a Palazzo Fava all'interno del lungo 800 porta artisti, porta temi, porta storia. Abbiamo già conosciuto il professor Angelo Mazza per altre esposizioni. Chiaramente il valore di ascoltare una piccola ma grande, secondo me, lezione di storia dell'arte in un segmento di storia della nostra città importante, purtroppo da troppo tempo sottovalutato. Fra gli artisti che troviamo in mostra, l'artista di corte Pelagio Palagi, abbiamo, come ho già citato più volte, ma ne ho una passione, Antonio Basoli. Si procede già con una prima sezione descritta dal curatore della mostra in maniera assolutamente esaustiva e soprattutto con dei contenuti in dialogo con la stessa sede espositiva quanto mai importanti. La mostra sarà fino al 30 giugno 2024, è a Palazzo Fava, Palazzo delle Esposizioni, ovviamente a Bologna. Quanti capolavori, è soprattutto qualcosa che ti porta a uno stordimento estetico e non solo. Ammirate il particolare, guardate quello che più vi attrae certamente e contestualizzatelo all'interno di una immagine totale, perché le tematiche sono veramente eterogenee e tante. Tra gli artisti, come ho già detto, Alessandro Guardassoni, altri capolavori che ha portato sono veramente da non perdere. Io direi di procedere, abbiamo parlato della prima parte dell'esposizione, si procede con altre parti della mostra stessa. Altri ambienti, altre sezioni si dedicano ad altre forme di produzione artistica dell'Ottocento. C'è una piccola la saletta con cose squisite di Giacomo De Maria, che è uno scultore canoviano, e non per nulla nella prima sala al centro abbiamo messo la Maddalena di Canova, un gesso strepitoso che annuncia il nuovo secolo. De Maria è suo allievo a Roma ed è l'autore di gessi, di stucchi che sono in città. Le statuette che abbiamo esposto sono modelletti preparatori delle grandi statue di Palazzo Ercolani, quella di Strada Maggiore, un'altra sala interessante che sta a dimostrare anche la varietà della produzione artistica, è quella delle maioliche Minghetti, cioè quella produzione di ceramica e di maiolica alla quale Bologna è molto affezionata, perché dalla metà dell'Ottocento ha prodotto una serie di oggetti anche di uso quotidiano oppure di carattere devozionale, le famose piccole Madonne che molti bolognesi conservano in casa. La fondazione ha un servizio assolutamente strepitoso, è quello del servizio di stoviglie, di piatti, di centri tavola, una cosa fastosa e monumentale che fu commissionata dal Duca di Montpensier, che a Bologna era proprietario e abitava in Palazzo Caprara, l'attuale sede della prefettura. Questo gentiluomo, questo nobile legato alla corona di Francia e di Spagna, ordinò per il Palazzo Bolognese un servizio di 900 pezzi. La fondazione ne possiede 380, cioè un nucleo che, notificato dalla soprintendenza quando andò in asta a Genova, presso Van Nenes, è stato poi acquisito da un finanziere, Terruzzi, che l'ha poi messo in vendita e la fondazione lo ha acquistato, quindi riportando a Bologna il servizio più prestigioso prodotto da questa manifattura. Jan Garbarek nel loro Stargame dedicato a Palazzo Fava per l'esposizione da Felice Gianni a Luigi Serra per l'eterogeneità di suoni, con gli spazi di Jan Garbarek al soprano e al sax tenore, l'incontro alle tabla e alle congas con Zakir Hussein, che volevo mettere a commento sonoro a un'opera di Ippolito Bonaveri, per me meravigliosa, che troverete con un aspetto tonale cromatico così di contrasto, ma così armonico, così etereo se vogliamo, ma forte allo stesso tempo. Le tre religioni regioni. Circa nel 1853 Ippolito Bonaveri porta a conclusione questo capolavoro, dove troviamo, con aspetto atmosferico assolutamente concreto, nonostante, come ho detto, il contenuto di spiritualità, un angelo senza una particolare appartenenza, porta un velo a mo' di arcobaleno, che, come ben sapete, è il simbolo della pace. Le tre figure femminili che rappresentano le tre grandi religioni monoteiste, una a fianco all'altro, così, con lo sguardo verso il visitatore in maniera interrogativa, come per dire: beh, ancora vi fate la guerra? Uno sguardo di monito di queste tre donne, almeno questa è la mia. Ho voluto interpretarlo in questo modo, in un momento così difficile, con questo sguardo rassicurante ma allo stesso tempo austero. È un lavoro di Ippolito Bonaveri. Io sono rimasto, come tutte le mostre che ho avuto la possibilità di anticipare all'interno del lungo Ottocento, anche questa a Palazzo Fava mi ha lasciato, e non solo per l'estetica ma per oltretutto contenuti e il dialogo con la sede espositiva, che anche senza, certo, importante che ci siano, ma meritano la visita anche per la sede espositiva in sé. Antonio Basoli, ho chiesto al professor Mazza, ne ho una grande passione, come definirlo? Ci pensa un attimo e dice: è un fantastico. Sì, è un fantastico. Antonio Basoli è quello che voi trovate nei vostri sogni. Vi è mai capitato? A me capita, mi inquieta anche un po', di trovare un paesaggio che ho pensato di aver già visto, di aver già immaginato. Anzi, per i primi momenti nella veglia dico: no, ci devo tornare, ma non esiste. Esiste solo nel sogno che ho fatto, ma io sono convinto di averlo già visitato. Ecco, molte volte quel contesto ricorda molto le immagini di Antonio Basoli. Allora, ci sono alcune opere di Antonio Basoli all'interno di questa esposizione. Tra l'altro io ne consiglio anche una visione per quanto riguarda l'alfabeto, beh, ve ne parlo dopo dell'alfabeto di Antonio Basoli, perché merita assolutamente. La mostra non finisce qui, perché c'è una sala assolutamente unica di opere di Antonio Basoli. Basoli è l'immagine di Bologna dei primi decenni dell'Ottocento, che ci fa vedere i canali poi nascosti, i cortili, l'interno delle chiese, i palazzi, e vedere qui una ventina di opere, prevalentemente di piccolo formato come era nella sua produzione, è cosa che non si vede da almeno 20 anni, cioè dal tempo della mostra realizzata dall'Accademia di Belle Arti all'inizio del 2000. Insomma, una visita comporta anche la visione di altri aspetti, che è quella delle sezioni finali, che presentano l'immagine di Bologna nell'Ottocento, cioè quelle vedute che ora non è più possibile apprezzare, perché l'industrializzazione, l'urbanizzazione, lo sventramento con l'apertura di arterie principali per il traffico, l'abbattimento delle mura per ragioni igieniche o per altre ragioni, sta di fatto che al tempo ci si rese conto che la città stava notevolmente trasformandosi ed era necessario documentarla prima che intervenisse la fotografia. C'è quindi una sezione con vedute delle chiese, dei palazzi, delle piazze, delle strade, anche degli opifici che allora la città aveva in centro, come le cartiere con i mulini attorno ai canali. invece per Antonio Basoli ho voluto portare questo artista che per me è molto onirico, è un inglese, è qui presente nel lavoro Upon a Reflection, che è molto onirico tra l'altro, e per ACM lui risponde a nome di John Sarman, al soprano, al clarinetto basso, come state ascoltando adesso, alle parti elettroniche con sintetizzatore. Beh, è un disco che, ma come, io sono già stato in questi paesaggi, ma aspetta che mi riprendo un attimo, ma quando? Ma non ricordo, no, ma com'è possibile? Beh, l'ho sognato, l'ho visto e mi si sono aperti dei mondi, dei ricordi, ma no, ma in effetti non ci sono mai stato, chi lo sa. Questa è la sensazione ascoltando alcuni brani e la sensazione anche ammirando determinate opere. Allora, perché tutto ciò? Ad esempio, Basoli nel suo alfabeto per ogni lettera mette attinenza, non so, può fare la P a forma ovviamente della lettera stessa, ma a commento ne dà un paesaggio di piramidi, ma non riprende le piramidi come sono, può mettere assieme piramidi Maya, come può mettere assieme ovviamente quelle egiziane dell'antico Egitto, può ricostruire un paesaggio inesistente ma che diventa assolutamente concreto. Questo è uno degli aspetti anche del simbolismo di cui parleremo tra poco, Una visione di un'antica Roma o di una Cartagine che non sono paesaggi che corrispondono a qualcosa che lui ha visto, è una sua sensazione e la riporta in quello che lui sente che deve essere quel paesaggio, e lo fa veramente con un talento incredibile. Non è il solo artista con queste modalità di espressione. Comunque lo potete trovare insieme a tanti altri fino al 30 giugno, se non mi sbaglio, a Palazzo Fava, sì, lo confermo, da Felice Gianni a Luigi Serra all'800 nelle collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Fava, all'interno del lungo 800. E in conclusione si conclude la mostra con un angolo, diciamo così, carducciano, cioè un gesso di Adolfo De Carolis, che è l'autore del grande monumento in marmo che è vicino a casa Carducci. Ecco, questo è un modelletto realizzato, uno dei due che l'artista ha realizzato prima di procedere agli inizi del Novecento alla produzione, una produzione molto faticosa e sofferta, così come è il caso della decorazione di Palazzo del Podestà. Se uno va, vede soltanto in parte questa decorazione di Adolfo De Carolis. Adolfo De Carolis ha fatto un modelletto, che è quello che noi abbiamo qui esposto, con tutte le scene della storia di Bologna. Insomma, si può arrivare fino al 1915, che è l'anno della grande, terribile, disastrosa guerra mondiale, una vera autentica carneficina, perché noi celebriamo questo secolo, ma è un secolo anche di dolori, di guerre, di sommosse popolari, e anche gli artisti li rappresentano. C'è ad esempio Giovanni Masotti, che è autore di una celebre dipinto di cui la Fondazione possiede una versione, che è quella della bandiera bianca, cioè una sommossa popolare, una protesta popolare con la carica della polizia in fondo a Piazza Maggiore. I manifestanti alzano un bambino vestito di bianco a indicare quanto siano pacifici nelle loro rivendicazioni. Ecco, il secolo dell'Ottocento è il secolo dell'Unità d'Italia, delle guerre di indipendenza, e si conclude con il dramma della Prima Guerra Mondiale. Concludiamo con Miguel Zenon, disco tra i più belli pubblicati di recente, musica de las Americas. Miguel Zenon, ascoltato di recente al Torrione, non solo, ne parleremo domani per Jazz Live. Intanto ringrazio ancora una volta il professor Angelo Mazza, curatore dell'esposizione appena presentato. Invito e ribadisco la visita per queste rassegne che in maniera più capillare in questa puntata con tre esposizioni stiamo portando al microfono della rubrica In Mostra, e non finisce qui. A tra poco si procede con il Museo dell'Ottocento e un grande Mario De Maria. A tra poco.